sono l'aver tagliato fuori i font di Google, perché uno dovrebbe caricare per visualizzare il sito, quindi dare notifica a Google tutte le volte che stai caricando, qualcuno sta caricando quella pagina web, di servirti i font. Comunque, anche quella è un'informazione relativa a quante volte viene visitata quella pagina web e non è necessaria di rilasciarla a qualcun altro. Insomma, io come, a parte insomma, voler sentire un po' la vostra opinione, come lavoro insomma, di brainstorming che ho fatto con altre persone di server autogestiti e andandomi a vedere le patch, insomma, mi sono scritta una serie di linee guida che potremmo suggerire a chi sviluppa plugin di WordPress. Visto che sono un grande ecosistema all'interno di internet e che quindi insomma, sono all'interno della nostra vita di tutti i giorni perché visitiamo siti web scritti in WordPress. Non tutte le linee guida, cioè, no, anzi, quasi alcune sono comuni alle linee guida che WordPress come comunità si dà. Cioè, la prima, quella di pubblicare i tuoi contenuti sotto una licenza GNU GPL, è condivisa insieme alla comunità di WordPress. Questo no problemi. Poi, una delle altre linee guida che potremmo incentivare, chiedere ai developers di plugin, è la compatibilità con la versione corrente, che insomma alla fine significa più o meno ribuildare il pacchetto e ritestarlo ogni main version di WordPress, te, to, 2 volte l'anno, e è un segno di vita che insomma sarebbe buona cosa che lo sviluppatore desse riguardo al suo plugin o al suo tema. Poi una delle altre linee guida diverse ai developers è avere un canale di contatto e questo è una cosa a cui WordPress centralmente dà risoluzione perché c'è la possibilità di contattare gli sviluppatori dei plugin che sono scelti e che passano un vaglio all'interno della comunità di WordPress, è possibile contattare questi developers attraverso il sito web di WordPress. Poi però entriamo in quest'altra parte, invece non ha indicazioni ha indicazioni sul sito web, sulle linee guida degli sviluppatori WordPress, però le indicazioni che io mi sentirei di dare sono differenti dalle loro. Ovvero, nel sito web di WordPress ti dice che se fai collezione diretta o indiretta di dati, l'importante è che lo espliciti in una privacy policy, se fai un plugin che fa collezione di dati. La differenza tra dati diretti e indiretti è che i dati diretti sono l'IP o dati direttamente collezionati da un form del plugin, che uno può compilare e dare direttamente, mentre i dati indiretti sono la dimensione dello schermo, i dati che uno può collezionare dalle risposte che il browser dà e che il plugin può andarsi a leggere. E quindi sarebbe appunto una delle linee guida che cerchiamo di rispettare su NoBlogs e che è comune anche ad altri WordPress, MU, cioè a gruppi di sysadmin che hanno WordPress o WordPress MU, è quella di non avere plugin che fanno collezione diretta o indiretta di dati. Asterisco però. Cioè, perché in realtà anche su NoBlogs c'è, per esempio, in alcune parti c'è il CAPTCHA e quello è un plugin che non riusciamo a sostituire con un altro e che però per policy sei obbligato a, se l'hai installato, sai che si stanno prendendo dei dati. Di chi sta visitando quel punto lì, che sono molto minimali, però esistono, ovvero il recupero password, il commento, alcune cose. Poi, di non mandare non anonimizzate statistiche non anonimizzate a terze parti, perché molti plugin fanno anche questo. Quindi una cosa è che lo sviluppatore direttamente o il gruppo che ha sviluppato un plugin o un tema si ciucci dei dati dei tuoi utenti, tu sysadmin, un conto è che questi lo facciano per sé e lo invino anche a terzi. Possibilmente meglio che non lo facciano. Poi, di non avere link a codice ostato da terze parti, quindi la cosa dei CDN che vi dicevo prima, ma anche appunto nei temi uno dei problemi può essere che si tengono di default delle immagini che però sono ostate nel loro sito madre. Non usare cookie persistenti, non avere link verso risorse in HTTP, non avere librerie con non includere con già all'interno librerie con problemi noti. Uno degli altri accordi, che questo invece è diretto tra un sysadmin e il proprio utente, è il fatto che sì, ostiamo il tuo sito, ma non permettiamo che sia eseguito del codice custom che tu inserisci nel tuo sito. Questo, per esempio, è una cosa non scritta, ma che potremmo rendere più esplicito. E un'altra è sulla pagina HTML base, cioè sul fatto sul tag di Content Security Policy, la CSP. Sempre in questo rapporto tra sysadmin, cioè tra chi osta e l'utente finale che legge il blog, ci potrebbero essere anche cose suggerite, cioè pensare al meglio, no? E quindi sapere che noi ostiamo codice di cui conosciamo i developers. Conosciamo direttamente i developers e abbiamo possibilità di scriverci, magari anche cifrato, ma e per conoscenza diretta con chi ha sviluppato il plugin o chi ha sviluppato il tema, che non è in realtà una cosa così remota, cioè nel senso per alcuni temi e per alcuni plugin questa cosa succede davvero, però non è per la totalità. Che magari ogni plugin abbia una sua privacy policy, cosa che non è richiesta nelle linee guida di WordPress, però in realtà è interessante che ce l'abbiano, che sia compliance, quindi che soddisfi la possibilità di girare soltanto software JavaScript con una licenza libera, e questa cosa è possibile testarlo con un plugin della Free Software Foundation. E di solito se tu sei un server autogestito, un server libero, la Free Software Foundation ti scrive chiedendo, però Stallman ti scrive chiedendo, ma le licenze del tuo JavaScript sono tutte libere? Ed è effettivamente una cosa da chiedersi. Questa è umana, su invece chiedersi se i developers dei plugin di WordPress, che hanno anche milioni di installazioni, tengono il loro codice versionato, il codice che poi fanno il pacchetto e mandano a WordPress che ridistribuisce, se il codice che tengono versionato lo tengono in un posto sicuro. Cioè, per esempio, se il loro repository Git ha una doppia autenticazione o se tengono sicuro il loro codice, visto che poi viene ridistribuito per milioni di copie. Le ultime due, vabbè, ok, è che se uno è sviluppatore o di plugin o di temi, si spera che almeno abbia letto il manuale. Penso di aver saltato una riga, che effettivamente però è abbastanza importante, è quella sul fatto dei plugin che utilizzano SaaS, cioè Software as a Service. È abbastanza importante perché in realtà se vai a leggere le linee guida di WordPress sullo sviluppare plugin, ti dice in maniera specifica che se tu usi un software as a service, sei tenuto ad avere una privacy policy e dirlo ai tuoi utenti. Ma se è di Twitter o di Amazon, questa policy è già accettata, non ti preoccupare. Perché è probabilmente una policy che tu accetti già quando installi WordPress. Che mandi notizie, cioè che mandi notizie, che hai delle API per alcuni servizi verso Amazon e Twitter. Ok, quindi, cioè, secondo me il problema c'è, ce lo stiamo ponendo poco, nel senso, in tutto il codice che eseguiamo, cioè parte del codice che eseguiamo con WordPress è fatto da una comunità che non condivide i nostri stessi criteri di privacy e anonimato. E quindi secondo me sarebbe una cosa bella riuscire a venire fuori come comunità che dice siamo sysadmin, ostiamo siti, oppure dall'altra parte siamo utenti e comprendiamo il problema, noi vogliamo privacy e anonimato, e quindi facciamo pressione sulla comunità di WordPress perché se ne renda conto e capiamo quanto anche quella comunità condivide con noi una volontà di privacy, anonimato e sicurezza. Dopodiché, questo magari ve lo passo un po' rapidamente e poi potrei sapere delle vostre opinioni sull'argomento. E il fatto è che, appunto, come narravo, una delle cose che è esplicite abbastanza è il rapporto e il patto sociale che c'è tra gruppi che fanno hosting di siti web e utenti finali, e anche il publisher, cioè chi pubblica nel mezzo. Però potremmo fare di meglio, nel senso che i server autogestiti dalla parte loro potrebbero comunque dire più o meno siamo compliant con una serie di linee guide che rispettiamo, cioè che ci piacciono. Prima tra tutti è quella che utilizziamo solo software libero, che magari è banale da dire, però obiettivamente non è elencata da nessuna parte, cioè la nostra comunità non adotta delle linee guida sull'hosting di servizi. Quindi magari metterle esplicite può essere una bella cosa. Quindi avere soltanto macchine su cui facciamo andare software libero, cancellare o anonimizzare i log dei tuoi visitatori, volere propugnare il diritto di pubblicare cose in internet solo con una mail, cioè provando la propria esistenza con il fatto di avere una mail, ma in base a quello poter pubblicare in internet, diretto. La possibilità di chi pubblica di esportare tutti e cancellare tutti i suoi dati. Il fatto che, come sysadmin, come prima dicevo, i developers, che mi chiedo di tot plugin di WordPress che uso, quanto i developers stiano cauti su dove stanno tenendo il loro codice, allo stesso modo sarebbe bello che ci fosse uno standard condiviso di sicurezza a livello dei server autogestiti o i server della nostra comunità Hugmeeting, che sia almeno avere delle chiavi, avere accesso al server con delle chiavi SSH con password, e quindi non avere accesso al server in SSH con una sola password. No, con solo password no, non solo con una chiave SSH, ma avere una chiave SSH con password. Avere un tempo ragionevole di aggiornamento del proprio software, che non è specificato qua. Avere più di una persona che lavora sul servizio. Cioè, secondo me questo anche come comunità che io mi ci vedo abbastanza sull'abbracciare la teoria Debian di non nascondere i problemi, una delle cose di non nascondere i problemi è capire anche nel nostro ecosistema di sysadmin quanti server autogestiti sono in difficoltà e hanno solo una persona che sta dietro a un servizio. Perché questo è anche mio interesse, lato utente, di sapere che se siamo in questo caso il servizio è in pericolo ed è un fattore umano. Avere un canale a due vie di contattare le persone, i sysadmin di un server autogestito. In caso di patches, avere un versionamento pubblico e avere la possibilità che altri gruppi le riusino. Avere della documentazione del servizio. E questa è specifica per servizi web sull'avere una cross domain policy ristretta. Non lo so, sempre nel mio brainstorming, per esempio sul futuro di quello che diamo come servizi di hosting, è il pensare anche a, per esempio, l'anonimizzare, togliere i metadati dalle foto e dai media che carichiamo online, è una cosa che ci aiuta a mantenere la privacy. Si potrebbe, piuttosto che continuare a dirlo agli utenti, anche aggiungere una cosa lato server, che quando tu fai un upload su WordPress, per esempio, ti permette di anonimizzare i metadati. Questa è una cosa che con un po' di sforzo potremmo sbatterci a farla, perché comunque anche qua ho visto tra altri server e tra altre cose belle che esistono nel mondo di un server autogestito tedesco, che sono quelli di Systemli, che ti danno il servizio che poi è MAT for web, e ti dà il servizio di anonimizzare, di togliere i metadata dalle immagini. Se tot di noi che ostano siti web lo agganciano anche al fatto dell'upload da WordPress, sicuramente aumentiamo la privacy di tutti. L'ultimo punto di questi quattro personaggi in gioco, tra chi legge i blog, chi pubblica i blog, chi hosta i blog e chi scrive il software che fa andare questi blog, l'ultimo punto che riprendo è quello tra il sysadmin e chi sta pubblicando e chi legge quelle informazioni sul sito web. E secondo me, appunto, esplicitamente, e anche questo lo troviamo sui server che vi elencavo prima, quindi su Noblogs e su Blackblogs, è che i servizi sono per chi accettano il manifesto. Il manifesto è un manifesto politico e si chiede di condividere i valori dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antisessismo. L'altra parte che è chiara è che il fatto che i siti web ostati da quei servizi non le collezionano log e neanche informazioni dal browser. Il sito web non contiene codice autoscritto da chi mette i contenuti, quindi codice, cioè testo sì, ma codice no. Incoraggiamo la pubblicazione di contenuti che vengono rilasciati sotto licenza libera, proprio come utilizziamo solo software libero. Allo stesso tempo richiediamo che le idee e la documentazione, i concetti che vengono lasciati dagli utenti sui servizi che teniamo possano avere lunga vita e essere replicati e quindi avere una licenza libera. Che i backup sono una questione di chi pubblica i contenuti, anche per esempio questo su autistici è uno dei concetti, insomma, che viene esposto nel manifesto, è che l'obiettivo è mantenere un'infrastruttura di comunicazione, non di mantenere i backup della memoria di cosa è successo. E il servizio è senza garanzia, chiaramente. La garanzia è, come in tutti i software Linux, la garanzia è il fatto che gli utenti lo usino e che gli sviluppatori continuino nel loro lavoro. Niente, io vi ho esposto per, non so, 40 minuti le mie idee, ditemi un po'. No, vedo che tante delle cose che hai elencato sono comunque incluse nella nuova normativa GDPR, eccetera. Però il GDPR è da un lato dice di proteggere la privacy, dall'altro per me la distrugge, quindi non so come vi ponete voi su questo. Che è stato scritto ignorando completamente il GDPR, diciamo. Nel senso, è vero, per esempio, la cosa di potere che l'utente possa cancellare completamente i suoi file e che possa fare un export degli stessi è una cosa che è anche racchiusa nel GDPR, però che obiettivamente non va contro una mia... Okay. No, secondo me non c'è nessuna relazione. Cioè, nel senso, quello che... più o meno anche quello che faccio normalmente nella vita. Cioè, esistono delle leggi, ah, ok... E dopodiché esiste quello che penso che io sia giusto. E boom. Quindi non c'è relazione fra le due cose. Però se hai una cosa puntuale invece che dici l'ho vista nel GDPR, credo che sia una cagata, e l'ho rivista qui, parliamone. Ah, mi metto qua. Occhio che copri il coso. Una cosa che mi veniva in mente, ok, autistici ad esempio ha deciso completamente di non dare più la possibilità ai propri utenti di ostare dei propri siti, ma nel caso di utilizzare la piattaforma Noblogs. Con questo tipo di approccio limita una serie di problematiche che ci sono in WordPress causate dagli utenti e causate dal fatto che WordPress non è compliant a una serie di cose che sono esplicitate in questo vademecum. Fatto sta che una serie di utenti in realtà necessitano di personalizzare in maniera più approfondita quello che è l'interazione che hanno con i visitatori. E in realtà in una serie di casi necessitano anche una serie di cose che non gli interessa parte di quelle cose lì. E quindi in tutti quei casi, cioè nel senso, vorrebbero rilassare una serie di peculiarità di questo vademecum. Mentre però rimangono molto forti quelle che sono la maggior parte di queste sostanzialmente, cioè magari non vogliono, hanno, che ne so, un giornale e quindi come tale cercano di distribuirlo al maggior numero di persone. Quindi gli interessa tutto il resto, che quando leggi, quando è bla bla bla, però magari gli interessa di pubblicare quell'informazione in qualche sito, metti tipo Facebook, mi viene da dire. E ce l'hanno pure, nel senso, anche se non fosse agganciato, quindi per loro diventa in realtà non un problema, ma un'aggiunta di lavoro. Oddio, mi è sfuggito il punto che volevo dire, però ecco, queste sono tutte cose che te, ad esempio, metti a pari livello, o ci sono delle priorità che dici alcune di queste cose devono esserci e altre le posso rilassare, oppure hanno tutto un pari livello? Perché in tal caso diventi molto restrittivo e mi preoccupo del fatto che l'effetto che ottengo è esattamente l'opposto, cioè un utente che sarebbe venuto da te in realtà va a finire su wordpress.org e quindi non ho risolto questo problema, ma non ho risolto nemmeno l'altro. L'altra cosa che invece mi viene da dire è quella che, ok, sarebbe fighissimo riuscire a instaurare una collaborazione perenne con tutti i temi e i plugin che ci sono, però credo che sia molto difficile e una cosa molto faticosa. Quindi quello che mi veniva in mente è provare a lanciare una campagna che faccia esattamente l'opposto, cioè fare avvicinare gli sviluppatori a questa roba e dire ok, sono autistici compliant, sono autistici approved. E boh, basta. Sì, sono privacy friendly. Perché è sostanzialmente quello che fa F-Droid. Cioè, quello che ho detto è sostanzialmente quello che ho visto in F-Droid. Cioè, loro hanno deciso, hanno stabilito una serie di regole, però non hanno proibito a tutti i software che non sono completamente compliant con quello che loro dicono che è libero, di stare all'interno di quella distribuzione, perché altrimenti dei software che loro ritengono debbano poterci stare, che è meglio che tu li prendi da là piuttosto che da un altro posto, non ci possono stare. Quindi hanno rilassato una serie di cose, in più hanno detto, oh, io sono F-Droid, io faccio questa cosa qua, io ti rendo molto visibile e comprensibile quelli che sono i rilassamenti che tu stai facendo, cioè tu utente stai facendo, e quindi a quel punto scegli tu che cosa vuoi fare. Chiaro che qui è più difficile, perché qui c'è un terzo soggetto, che cioè F-Droid, che diciamo che sarebbe autistici, e poi ci sarebbe l'utilizzatore, che sarebbe quello che fa il blog, e qui abbiamo un terzo soggetto che è quello che utilizza il blog, mentre nelle applicazioni questa cosa non ce l'hai, quindi vuol dire che l'elemento centrale, cioè quello che mette su il blog, sta prendendo delle decisioni anche per il suo utente. E quindi si innescano delle problematiche probabilmente maggiori rispetto a quelle di F-Droid, però mentre ti esponevo questa cosa, cioè questo pensiero che mi stavo facendo, stavo pensando a quel progetto là. Ok, no, tipo questa cosa su F-Droid, aggiungerei l'appunto che c'è anche lo sviluppatore che comunque fa la scelta nel mezzo a dire: io sviluppo con software libero, non voglio che i miei utenti siano tracciati e preferisco e sto chiedendo a F-Droid comunque di venire pubblicato lì perché trovo che sia un posto migliore rispetto al market di Google. Quindi c'è anche quel quarto attore. C'è una scelta che lo sviluppatore può fare. E, sì, io sono d'accordo con te, nel senso adesso magari ti dico quali sono prioritari, maggiormente prioritari per me, però è anche l'incontro adesso voleva essere un po' una prova con la realtà, no? E vedere che cosa fra utenti riteniamo necessario e lo sbatti da sysadmin invece quanto è sbatti, stare a essere compliant su tutte queste cose e il capire un attimo che se collettivizziamo il problema che cosa possiamo risolvere. Ecco. Nel senso, per esempio, già su WordPress, riguarda i WordPress Mu, il fatto che ci sia tutto un corredo di codice che esiste e che ci patcha WordPress non è una cosa malvagia e buona, cioè nel senso esiste questo di NoBlogs, so che viene utilizzato per esempio anche da BlackBlogs e insomma uno sa che c'è questo sforzo di qualche gruppo per mantenere patchato quello che è WordPress Mu con un set di plugin e di temi. Questo è il lavoro che già esiste e che è buono dirci che esiste, è lì, uno se lo può prendere. Su altre cose, che ne so, anche quello dei CDN, uno probabilmente se reputiamo che ci rompe l'anima avere CDN esterni nei nostri siti web che vengono aggiunti da plugin e temi, quello probabilmente può trovare una soluzione rapida, cioè con uno script, con un altro plugin aggiuntivo che ti rende compliant a quel punto il tema e il plugin, cioè che ti ripassa tutti gli header di plugin e temi, va a vedere che script chiamano e se sono CDN te li raggruppa in dei CDN e quindi insomma pensare un attimo collettivamente effettivamente sì, quali sono le priorità e come risolverle rapidamente. Poi capisco quello che mi dici sul fatto che molto spesso abbiamo persone che vogliono arrivare rapidamente a un obiettivo di un sito web che potrebbe essere anche solo la maggiore diffusione e non avere la clausola del rispettare la privacy dei tuoi utenti, però voglio che siano il più esplicito possibili queste differenze, cioè che se vado a visitare un sito web che è ostato dal mio hack club di fiducia o che è ostato da un server autogestito di cui ho fiducia, tutti i siti web lì sopra non collezionino i log, o che quelli che lo fanno siano chiari, cioè che io come utente possa sapere quando mi succede e quando no, che sia chiara questa differenza, no? Basta, poi capisco che non sia, non sarà mai cioè che non sarà magari sempre soddisfatta, però. Io forse sono arrivato un po' in ritardo, ma noi a Sindomini abbiamo lo stesso problema, lo stesso processo, perché abbiamo anche un WordPress multi-user, un WordPress network, per fare un po', bueno, per gli utenti, per i collettivi che non hanno la capacità per fare un site più o meno facile. Ma stiamo trovando tutte le volte che è come un costo troppo grande generare tutto questo, no? Stare sempre attento a che tutti i plugin sono corretti, a che i temi funzionano, che l'utente sempre ti dice: io ho il mio tema, io voglio installare il mio tema, tu dici no, non puoi utilizzare quello, dobbiamo prima revisare tutto il contenuto. Allora, la nostra esperienza questi ultimi mesi o questi ultimi 6 mesi e cercare altre alternative forse per entrare al mondo più statico e lasciare indietro questo mondo più dinamico, cercando soluzioni forse come nell'IFAI con Ugo o Grab con altre cose. Non lo so se per voi a NoBlox avete pensato qualche volta a fare questo cambio, no? Per noi la idea è generare un spazio di amministrazione più privato dove soltanto gli utenti entrano a generare i contenuti e dopo automaticamente tutto quello che è pubblico è statico, così non ci sono tanti problemi con i plugin, puoi controllare meglio tutto quello del Google Fonts perché non siano pubblici, bueno, non lo so, cercare un'altra alternativa forse che a WordPress. Sì, questo cavolo, sì, cioè questo apre tutto un altro scenario. È un'altra soluzione ancora che anche tipo in autistici ogni tanto passa, se ne parla, se ne discute, si pensano a soluzioni di farlo così e poi non si fa. Anche perché poi di compilatori di siti statici ce ne sono 10.000 e devi scegliere quello che ti soddisfa di più, che soddisferà di più l'utente, poi passi nel tormentone Git, ma l'utente sopravviverà alla prova Git, perché anche quello non è facile. E continuerai a avere gli utenti che, come dice lui, dice, però poi magari hai l'utente con lo streaming radio che vuole avere lo script che gli mette il palinsesto, bla bla bla, e quindi poi ti scontri con la necessità di espansioni